about freedom, love, and luxury. And a part of his story's back numbers. The liberties that you've taken ensure that people shaken would eventually awaken from their slumbers. Ok, ciao, ciao a tutti, benvenuti, e sempre da Prog 5 quarti e Prog 1. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte. E questo è sempre il rovescio della medaglia. E vi diamo il benvenuto alla, che è la quindicesima? Sedicesima puntata, mi sembra, compresi gli speciali. E ci siamo trasferiti nella nostra regia nel Regno Unito, perché, come avrete capito dalla scorsa puntata, stiamo parlando di quella che è stata la scena del prog inglese e tutto quello che ci è girato intorno, no? Nel famoso teatro che ci hanno lasciato in eredità gli Emerson, Lake & Palmer, dove avevamo fatto uno studio di registrazione. No, ci vantiamo di esserci trasferiti proprio in quel teatro. Ok, allora, avete ascoltato la sigla iniziale, che erano i Caterpillar con Promises, e oggi abbiamo aperto con la sigla. È stata il primo gruppo che andremo a presentare, ossia i Caterpillar, e li presento subito. Che dici, Prog 5 quarti? Sì, presenta, dai. Va bene, via. Allora, i Caterpillar erano una band che si è formata nel 70 a Londra. È un gruppo che hanno prodotto solamente due album, che il primo da cui stiamo ascoltando ora, Promises, che è eponimo, album eponimo. Strano, quindi, no? Sì, molto, non succede raramente, oserei dire. E poi ho scelto anche questo gruppo perché, oltre a scavare, come piace a noi, per trovare quei gruppi sconosciuti, diciamo, mi ha colpito molto anche perché è uno dei pochi, diciamo, dei pochi esempi, delle poche realtà. E come se ne parlava prima con Prog 5 quarti, di voce femminile in un gruppo prog. E ricordiamo che quando abbiamo approfondito la scena italiana, l'unico gruppo, o quantomeno chiaramente della nostra ricerca, che aveva una voce femminile, erano questo gruppo calabrese di Palmi, che si chiamavano gli Apoteosi, che per gli ascoltatori più attenti magari ricorderanno, abbiamo presentato, credo, nella prima puntata, visto che era A come Apoteosi. Immagino, sì, sia stata la prima. Ma infatti tutti gli ascoltatori che mi fermano per strada mi chiedono: ma chi era quel gruppo, come si chiamavano quel gruppo calabrese che aveva una voce femminile? E io non me lo ricordavo, dicevo, ma ce l'avevo sulla punta della lingua. È arrivato Prog 1 e ha chiarito tutto. Erano gli Apoteosi. Beato te che ti chiedono comunque, che ti chiedono queste cose. In continuazione. A me mi insultano solamente quando mi incontrano per strada. Comunque, vabbè, è un approccio diverso. Sarà forse questo il portamento di Prog 5 quarti, la sua essenza, ecco. Va bene. Allora, come abbiamo detto, i Caterpillar sono usciti con soli due album, nel 71 e nel 72, il primo eponimo, il secondo si chiama Changes, e con il primo ce lo siamo già bruciati, mandando il pezzo di apertura, Promises, e quindi passiamo direttamente al secondo pezzo, al secondo album, che si chiama Changes, da cui manderemo Charing Cross. E un'altra nota, diciamo così, per un'altra particolarità di questo gruppo è che la voce femminile, nello specifico, magari qualcuno dice ma chi era, si chiama Anna Meek, praticamente lei in un sacco di pezzi improvvisava. Magari ora nello specifico non so se i pezzi che bandiamo noi sono improvvisazione, ci sta, però ecco, è una nota interessante anche del talento di questa donna, di questa artista che un po', diciamo, ha rappresentato, ha dato un'eccezione, un'eccezionalità a questo gruppo. Oh, no. Nota molto, molto interessante. E quindi nulla, per ora vi mandiamo i Caterpillar e poi daremo un po' di informazioni varie, le diamo dopo, vero? Sì, andiamo, okay. Finiamo il pacchetto Caterpillar, okay, sempre perfetto. Su Radio Wombat. E loro sono, il pezzo si chiama Charing Cross, dal secondo e ultimo album del 72, Changes, i Caterpillar. Thank you. E questi erano i Caterpillar, ampiamente diciamo presentati e descritti dal nostro Proguno, mentre il prossimo gruppo che andiamo a presentare si chiamano i Cressida o Cressida, no, non so perché viene questo nome dal titolo di una tragedia shakespeariana che si chiamava Troilo e Cressida. Cressida. Comunque, la band nasce nel 1968 sulla scia dei primi gruppi, diciamo, progressivi britannici, tipo i Moody Blues, e in quello stesso anno, nel 68, esce il primo singolo dei Cressida, che si chiama Lights in My Mind, che poi verrà incluso nel primo disco, che è quello che presenteremo, pubblicato nel 1970. Appunto, questo ancora non è proprio un, diciamo, uno stile prog maturo, no? Però comunque, anche se rimangono comunque delle ballate un po' melodiche, però ci sono delle atmosfere che comunque ricordano, echeggiano a quello che è stata la scena prog, come diciamo questi dialoghi tra flauto, tastiere, chitarre. E di questo, il primo album ovviamente eponimo, che si chiama Cressida, e da questo album andiamo a presentare due brani. Il primo brano, anch'esso eponimo, quindi diciamo, quindi presentiamo Cressida dall'album Cressida, brano Cressida dei Cressida. Sembra uno scioglilingua quasi. Sì. E l'altro album, l'altro brano si chiama Depression. I due brani, ancora appunto, non proprio strettamente prog, infatti hanno una durata abbastanza breve, no? Per come siamo abituati noi. Comunque, ve li mandiamo mixati dai nostri grandi mix di Prog One. Quindi Cressida e Depression. E questo era Depression dei Cressida, sempre qui su Radio Wombat. E sempre dei Cressida, stiamo presentando il secondo e ultimo album del 1971 dal nome Asylum, che comprende alcuni brani diciamo concettualmente molto simili ai precedenti, quindi queste atmosfere un po' tristi, un po' cupe, però con delle sonorità un po' più complesse, un po' più, come si può dire, un po' più mature, ecco, questo termine che mi piace, che quando non so che dire dico maturo. Comunque, questi due album non ebbero un grande successo. Infatti nel 1971, dopo il secondo album Asylum, il gruppo si sciolse senza avere, come ho detto, un grande successo. Però nei primi anni del 2000 vengono ristampati, non so per quale motivo, da consiglio, su un'idea di chi, vengono ristampati molti CD. Non più vinili, ma CD. Comunque, perdonami, sì. Io ho ricercato, sai che sono malato di queste robe. Certo. Ho ricercato, mi sa che è uscita almeno, credo, del secondo album, perché loro, a differenza di tanti altri gruppi, il secondo album eponimo, mi sa. No, il primo. Mi sa che è uscita una ristampa su vinile, non vorrei sparare una cazzata, credo 2006 o 2007, Non avevo trovato, bravo, hai fatto bene. Comunque, dopo questi anni 2000, queste ristampe, che comunque sono state ascoltate da più persone, con un pubblico più ampio, sono stati definiti uno dei gruppi più interessanti di quella che veniva considerata la prima generazione del prog inglese, che è stata anche definita come, con il termine di proto-prog. Che non so perché ti piace, me lo sta ripetendo da tutto il pomeriggio, che ma ti piace è bello termine. Come suona, no? Proto-prog. Mi piace proprio come suona. E poi perché il faccino, l'espressione che fai quando diciamo pronunci questa parola. È una cazzata dei critici musicali che vogliono affibbiare delle etichette per forza a dei gruppi e infilarli in un genere. Però noi, essendo critici musicali, comunque certo, in qualche modo ci rendiamo complici, ecco. Ci rendiamo complici di queste cazzate che però suonano bene. E lo ripeto, proto prog. Comunque, dell'album Asylum del 1971 presentiamo un solo brano che si chiama Summer Weekend of a Lifetime. Gli Asylum. No, i Cressida. Tanto l'ho detto poche volte. Cressida. O Cressida. Prima dicevo Cressida. Ora... Dall'album. Dall'album Asylum. Ok, salutiamo anche i Cressida, o per gli amici Asylum. Una R in meno ci devi mettere. Cressida. Sì, ma ce l'hai messa una anche in fondo. Cressida? Sto gruppo non riusciamo proprio a creare un contatto. No? Passiamo oltre. Va bene. Allora, il prossimo gruppo invece che vado a presentare sono... Anche qua avremo dei notevoli problemi, sono i Czar, o praticamente sono andato a ricercare un po' le origini di questa parola, e che Czar praticamente da Zar, che a volte veniva scritto Czar come il gruppo, o Czar, ma anche Czar, insomma in russo. E che deriva appunto dal latino, come mi ha fatto notare, visto i suoi studi classici, mi ha fatto notare Prog 5 quarti, che deriva dal latino Caesar o Cesare, no? Aiutami, che sì, sì, è una contrazione del nome Cesare. Veniva usato come nome, non come nome proprio, ma come nome comune dell'imperatore o del... L'imperatore per antonomasia. Del leader, ecco, non volevo dire antonomasia perché sennò le dico tutte. Le dici tutte, posso anche ritirarmi a vita privata. Vabbè, comunque fu, che era il titolo usato per i sovrani dell'impero russo dal 1561 al 1721, però noi presentiamo l'album che è un po' più in là di data. Allora, quindi diciamo, i Czar praticamente anche loro si fermano, la carriera brevissima, si fermano al primo eponimo album. Esordiscono loro, diciamo una qualche nota, qualche curiosità su di loro, che esordiscono nel 67 col nome di Tuesday's Children. Diciamo, entrarono un po' in quella che era la scena degli anni, dalla scena di Canterbury un po' a tutta la scena prog, psichedelica, tardo beat. Tardo beat ti Sì, piace? ma guarda, ho sobbalzato. Potevi anche Sì. reagire, prog No, 5 ma proprio quarti. mi hai spiazzato. Cioè, quando te mi hai detto proto prog mi è scesa quasi la No, lacrimuccia, ma non è infatti giusto. sono rimasto senza fiato, appunto. Il tardo beat, cioè, però la brevetto io, è mia, cioè, non voglio sentirti minimamente No, pronunciarla. no, no, no, no. Vabbè, quindi entrano un po' nello scenario, appunto, partecipano, diciamo, in concerti, festival, appunto, con gruppi come i Moody Blues, i Pink Floyd, i Nice, gli Who, i King Crimson, praticamente in un secondo momento arrivano a cambiare il loro nome appunto, in Czar. Ed escono con questo album che deve essere, se non sbaglio, del 1970, vero? Prog 5 quarti? Sì, giusto, L'album corretto. eponimo del 1970, e di questo album noi vi presentiamo Cecilia, loro sono i Czar. Thank you. E questo era Cecilia degli Zar. E invece il prossimo, passiamo subito al prossimo, questo prossimo pezzo, prog 5 quarti, concedimelo. Questo pezzo, questi cori così mi lasciano un po' ricordare anche gli Alice in Chains. Non so, perché fermato. Ora stavo ascoltando questo pezzo, mi sono venuti in mente gli Alice in Chains. No, non sono molto ferrato su. Va bene, mi quando ci credo. Tutti coloro che ci scriveranno mi daranno conferma o smentiranno. Ma comunque sono sensazioni che ognuno, cioè, sono molto personali e intime, no? È vero. Comunque, il prossimo gruppo, sempre ovviamente un gruppo inglese, sono i Gracious, un quintetto inglese che anche questo si può catalogare nell'ambito del proto beat, del proto prog. Creato l'ennesimo genere. Il proto beat quando è? Negli anni 50. No, ma viene prima o dopo il tardo beat? È prima. Quindi c'è il proto beat e poi il tardo beat. Comunque, uno dei, diciamo, del, del primo periodo del progressive, e i Gracious escono con il primo album, ovviamente eponimo, Gracious, del 1970. Proprio una data, questa è una data di riferimento. E in que, di questo album vi faremo ascoltare Hell, che è uno dei, dei brani più sperimentali del gruppo, che diciamo richiamano un po' anche King Crimson. E non a caso i Gracious facevano d'apertura, hanno fatto d'apertura ai, ai primi concerti dei King Crimson. Quindi le caratteristiche, quindi sono le, queste voci filtrate, no? Come i primi dischi di King Crimson, e la tastiera come un, diciamo, un punto fermo nella, nella musica di Gracious. Grazie. Non ero credibile. E il, appunto, tornando all'importanza delle tastiere, era questo tastierista dal, dal cognome simpatico che si chiama Martin Kitcat, uno dei, dei pilastri della band, suonatore anche di clavicembalo e mellotron. Il famoso mellotron, ritorna sempre. Il mellotron è il clavicembalo, ovviamente preso in prestito dalla musica classica e dall'opera. Comunque, andiamo ad ascoltare dal primo disco Gracious, dei Gracious, Hell. Thank you. E quindi passiamo direttamente al secondo e ultimo album dei Gracious. Scusa, prog 5 quarti, puoi appena ripetermi come hai definito l'ultima parte del pezzo L dei Gracious, per favore? Pseudo swing. Oggi stiamo coniando dei termini micidiali. Siamo già a 4? Proto-prog, tardo beat. No, in ordine proto beat e tardo beat, e ora era pseudo swing. Vediamo fino a fine puntata quanti termini tiriamo fuori. Comunque, questo il secondo e ultimo album si chiama This Is Gracious, del 1972, anche questo diciamo di ispirazione crimsoniana. E molto, anche secondo me, ma anche secondo la critica del tempo e contemporanea, un album più maturo, però perde di quel fascino un po' naif, di quel fascino un po' ingenuo del primo album. Comunque, vi faremo ascoltare da questo secondo album il brano Blue Skies and Alibis. Questi sono i Gracious. Ok, allora, in teoria doveva chiudere questo piccolo capitolo prog 5 quarti, ma lo chiudo io con i Gracious. Ma l'avevo chiuso prima, avevo presentato, avevo detto che era l'ultimo album. Sono no, io cioè, che l'ho riaperto allora. L'ho riaperto e si richiude la svelta. Questa era Blue Skies and Alibis dei Gracious, dall'album, dal secondo ed ultimo album, This Is Gracious. Ok, allora è arrivato il momento dell'agenda della settimana. Allora, una settimana un po' poco densa di appuntamenti, ma ve ne indichiamo qualcuno, quelli che ci sono sembrati più... Sì, ce ne abbiamo due. di cui il primo è domani, mercoledì 15 febbraio. Segnaliamo cena vegetariana con DJ set di Dub Wise Connection, reggae dub session, e al Melograno in via Aretina. Quindi se volete andare a cena fuori andate lì. E mentre il secondo appuntamento, e arriviamo direttamente al weekend, e al Camilo Cienfuegos ci saranno tre gruppi, Bomber 80, Cosa Nostra e Riot Clan, e poi a seguire Mog & Barber DJ set. Tutto questo sabato, ricordiamolo ancora, sabato 18 febbraio al Camilo Cienfuegos di Campi Bisenzio. Ok, allora è finita l'agenda della settimana? Sì, è finita l'agenda della settimana, anche perché ero ansioso di dare tutta una serie di dati tecnici. Certo, di info per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Tipo, che ne so, il sito, ad esempio un sito, il nostro sito, che è wombat.noblogs.org. Poi c'è twitter.com/radiowombatfi. Poi c'è facebook.com/radio-wombat-firenze. E poi, se volete scriverci, la mail è postawombat@insiberia.net. Ma che cosa ci possono scrivere, Proguno, in posta? No, che cosa ci possono mandare? Mandare, vi ricordiamo ancora che scade, aiutami con la scadenza. Scade il 22 febbraio. Il 22 febbraio, ossia giovedì, venerdì, martedì prossimo, giusto? Può essere? Non lo so di preciso, ma che giovedì, oggi, non so nemmeno giovedì, che giorno è oggi. Sabato 18, domenica 19... lunedì 20, martedì, scade mercoledì 22. Mercoledì 22. Quindi affrettatevi a mandare il vostro simpatico, nonché fantastico logo per la radio, che poi verrà messo insieme a tutti gli altri loghi che via via state mandando. E se ne sceglierà uno, non so secondo quale criteri, ma tanto sì. Io non parteciperò a priori alla scelta, quindi va bene così. È un logo che servirà appunto per i nostri social, per il nostro sito, per gli adesivi, per le spille, per le felpe, per le maglie, per tutto quello che ci viene in mente. Quindi deve avere un formato e uno stile adattabile, completamente libero nello stile, ma comunque adattabile a più situazioni. Ok. Poi comunque potrete trovare tutte le regole del bando sul nostro sito wombat.noblogs.org. Perfetto, era quindi diamo subito inizio alla seconda parte del rovescio della medaglia. No, ecco, non avevamo detto che era finita la prima parte. Ah, non lo sapevo nemmeno io. No, solitamente ce ne accorgiamo, perché come al cinema finisce il primo tempo. Ma perché non abbiamo la pubblicità? Forse è quello. Bisognerebbe mandare uno stacchetto pubblicitario. È vero. Così, bentornati, siamo alla seconda parte. Ok, allora bentornati, siamo alla seconda parte del rovescio della medaglia, sempre qui su Radio Wombat. Il prossimo gruppo che vado a presentare sono i Gravy Train. Che sono un gruppo di Manchester, che io parlo sempre al singolare, sono rimasto in quegli anni, forse anche di testa, non lo so, vabbè. Un gruppo comunque sempre degli anni 60-70, e la loro attività anche per questo gruppo è molto breve, dal 70 al 75, però riescono comunque a tirar fuori quattro album, di cui i primi due sono stati prodotti dalla famosa Vertigo Records, e gli altri due, secondo la critica, già calanti a livello di originalità e consensi, sono usciti con la Down Records. E ricordiamo ancora che la Vertigo Records, che abbiamo avuto modo di conoscere già con altri gruppi che abbiamo presentato, tra cui Colosseum, ricordiamo ancora che hanno anche prodotto i Black Sabbath, o nella scena prog hanno prodotto i Gentle Giant, che presenteremo forse nella prossima puntata, vero? Sì, nella prossima puntata. Quindi in qualche modo c'era un filo di collegamento nelle cazzate che spariamo. E la curiosità di questa etichetta discografica è che praticamente compare in una scena, è visibile in una scena di Arancia Meccanica, che tutti conoscete, il film Arancia Meccanica, nella scena ambientata in un negozio di dischi, che te giustamente, Prog 5 quarti, mi ricordavi la scena di... Sì, era la scena ambientata nel negozio di dischi, dove, se non mi sbaglio, parte da lì la colonna sonora, la versione, diciamo, della nonna di Beethoven con il sintetizzatore, sì. E poi dopo finisce con le due ragazze nella stanza di... del protagonista, che ora non ricordiamo. No, di McDowell. Andiamo con i Gravy Train. Pubblicità. Pubblicità. Ok, allora, però nonostante le critiche rivolte ai Gravy Train, noi comunque abbiamo scelto di presentare tutti e quattro gli album loro. Che comincia il primo album eponimo del 70, Gravy Train, e da cui presentiamo Think of Life. Ok, sempre dei Gravy Train, invece dal secondo album uscito nel 1971, A Ballad of a Peaceful Man, e il pezzo si chiama Old Tin Box. We'll be right back. Ok, continuiamo ancora con i Gravy Train e andiamo ad ascoltare dal terzo album uscito nel 1973, Second Birth si chiama, e presentiamo Motorway, sempre i Gravy Train qui su Radio Wombat. Speed freak, the boat of age, you see. Ok, arriviamo all'ultimo album della discografia dei Gravy Train, che uscì nel 74, Staircase to the Day, si chiama l'album, e da questo album abbiamo scelto, no, darci per la saga Diamoci con la zappa sui piedi, io vorrei che lo pronunciasse Prog 5 quarti, il titolo del prossimo pezzo. Prova a pronunciare questo titolo del brano, che si chiama Busted in Schenectady, che non ho minimamente idea di cosa significhi, ma mi sembra una cosa un po' dal tedesco, questo Schenectady, perché la S, la C e la H insieme nella lingua inglese mi sembra che non si trova. È una caratteristica più tedesca. Una scenectitudine, non lo so. Comunque, Busted in Schenectady. Dall'ultimo album Staircase to the Day del 74, e chiudiamo con i Gravy Train. You know the hand is waiting, and I'll just keep my E questo era l'ultimo brano dei Gravy Train, Busted in Schenectady. E il prossimo gruppo che presentiamo si chiamano gli Egg, The Egg, quindi l'uovo, e hanno avuto anche se una vita, diciamo, abbastanza breve, hanno pubblicato 3 album e hanno avuto una vita abbastanza, in quel, anche se breve, molto intensa, perché hanno suonato in vari gruppi, hanno formato, diciamo, più che suonato in vari gruppi, hanno formato diversi gruppi. Il primo nel 1968, i tre, diciamo, tre componenti che poi sono rimasti fino alla fine, hanno formato il gruppo Uriel, che hanno fatto comunque solo qualche esibizione dal vivo, facendo delle cover di brani, di classici del blues. Il luglio seguente, quando la parte vocale fu presa in mano dal bassista del gruppo, Campbell, cominciarono a fare dei brani loro, e molto influenzati dalle sonorità dei Nice e di Keith Emerson. Nell'anno successivo, nel 1969, prendono il nome di Egg e danno vita, prima di pubblicare un album, a una serie di concerti dal vivo. E nello stesso anno firmarono per una casa discografica che si chiama Decca. E però durante, diciamo, questo periodo che avevamo firmato con questa casa discografica come Egg, questi membri degli Uriel praticamente formano un altro gruppo che si chiama Arzachel, che pubblicano un album eponimo, pubblicato però con un'altra casa discografica. Quindi, avendo già firmato per quest'altra, la Decca, e praticamente nella copertina i musicisti appaiono solo con degli pseudonimi. Quindi hanno avuto in questi 2 anni, no? Hanno fatto live, hanno fatto degli album con pseudonimi, sono riformati, hanno firmato per una casa, poi hanno suonato con un'altra. Un po' come, diciamo, i Jethro Tull che uscivano, diciamo, ufficialmente con pseudonimi, con identità diverse, no? Sì, suonavano sempre più o meno negli stessi locali, però, e così per cambiare un po' si cambiavano i nomi, ma diciamo in sostanza erano sempre loro. Sì, erano sempre loro. Comunque, presentiamo soltanto il primo album degli Egg, appunto del 1969, album anche questo eponimo. Ah no, giustamente mi sta facendo notare Proguno che l'album, ma non è il primo album Egg, quindi. No, forse lo è. Forse lo è, però il primo album è che hanno fatto dal 1969 al 1972. Comunque. Quindi, ho detto che hanno avuto una vita. Sì. È il primo album. Erano, no, questo del 72, no, non è il primo album, te lo dico subito. Praticamente è il secondo, perché il primo è Ragione, l'eponimo, che esce nel 70, mentre questo che stai presentando te è The Polit Force, che esce nel 71, e nel 74 esce the Civil Surface, e poi c'hanno una pausa fino all'85. Ah, ecco, no, allora ecco, mi riprendo, scusate. Il primo disco è del 1970, che si chiama Egg. Esatto, appunto. Esatto. Perfetto. Allora, andiamo a presentare un brano dal primo disco, che è un classico, diciamo, un classico nello stile prog inglese e non solo, anche italiano. Una fuga. Giuro che non ho fatto apposta. Signori, con questa Noi vi salutiamo definitivamente. Andiamo. Non ci ascolteremo mai più. Andiamo in pensione. Andiamo in pensione, ci ritiriamo a vita privata in un'isola deserta. Comunque, stendiamo un altro velo pietoso. Diciamo un telo, ecco, di troppi metri per comunque, troppi metri. Una fuga in D minor. Non si può andare più avanti. Però guarda, se Proguno mi metti questa fuga, almeno facciamo stendiamo anche noi questo, la fuga. Vabbè. Questo velo di asfalto pietoso. Comunque sono gli Egg. Allora, passiamo direttamente al secondo album degli Egg, The Polite Force, del 1972, e il brano si chiama Contrasong. Ok, bene, bene. Salutiamo anche gli Egg. La loro presentazione rocambolesca. Mi raccomando, non mettiamo più fughe in scaletta. Perché altrimenti dopo tocca a noi darci alla fuga. Comunque va bene, via. Succede, il bello della diretta, via. I nostri 8.477 ascoltatori soprattutto ci ascoltano anche per questo, perché appunto per queste nostre piccole gaffe. Siamo un po' naif anche noi, sì, dai. Siamo tutti un po' naif. Bene, il prossimo gruppo, e siamo in chiusura, vero? Sì, abbiamo l'ultimo gruppo della serata. E praticamente sono gli Hatfield and North, un nome un po' particolare, diciamo. E anche loro escono con due album, di cui sicuramente infatti il primo eponimo del 74 e il secondo The Rotters Club del 75. Diciamo, questa è, almeno così come si presenta, diciamo, è sempre un gruppo che fa parte, come l'abbiamo detto nella precedente puntata, quindi come i Caravan e altri gruppi che abbiamo presentato e presenteremo, che fanno parte della cosiddetta scena di Canterbury, che a quanto pare in quegli anni ha fatto un po' da pilastro del rock progressivo inglese. E questa formazione un po', diciamo, si presenta con dei componenti di spessore, perché c'era Philip Miller, ad esempio, che dei Matching Mall, che presenteremo, dico questo perché lo presenteremo, c'era anche Richard Sinclair dei Caravan, che abbiamo già presentato. E tra l'altro anche loro, diciamo, una delle poche rare comparse testimonianze video di questo gruppo, e ce l'abbiamo con una comparsa in una TV francese insieme a Robert Viat, ricordiamo Robert Viat dei Soft Machine, che anche loro presenteremo. E quindi nulla, il nome di questo gruppo così bizzarro, diciamo, in qualche modo deriva da praticamente dal nome di un'autostrada che collega Londra con il nord, e a quanto pare, diciamo, questo nome è nato dal batterista che, e chiacchierando con una ragazza di Hatfield, quindi magari provandoci, la critica è gentile, dice chiacchierando chiacchierando con una ragazza di Hatfield, diciamo gli confessa, magari era pure sbronzo, chi lo sa, gli confessa che gli piacerebbe molto suonare in un gruppo che si chiamassero appunto gli Hatfield and North. E così, diciamo, da questa chiacchierata con questa ragazza nasce il nome singolare, un po' bizzarro, di questo gruppo, che appunto si chiamano Hatfield and North. E di loro presentiamo dal primo album eponimo, Showing is Boring, e con questo salutiamo e salutiamo il nostro caloroso pubblico. Salutiamo tutti, perdonateci per le, anche oggi abbiamo collezionato delle gaffe simpatiche. Però ormai, in compenso abbiamo dei neologismi che potremmo già tranquillamente passare all'Accademia della Brusca e della Crusca, sì, sì. Quindi proto prog, tardo beat, proto beat, pseudo swing, quindi insomma, ecco, diciamo, bilanciamo, ecco, non Le gaffe si bilanciano perfettamente con i neologismi. Sì, ogni tanto qualche latinismo, facciamo questi finti intellettuali. Sì, e sì. Poi dopo rimaniamo i soliti pane e salame. Schiacciata e salame oggi. Va bene, va bene, con questo salutiamo, vi salutiamo tutti da Radio Wombat. Loro sono gli Hetfield and North. Il pezzo è Shaving is Boring e ci sentiamo martedì prossimo e con tante novità, tanti gruppi, sempre con approfondendo quella che è stata la scena del prog inglese. Ciao a tutti e buona serata. Ciao, buona serata. Thank you.